Lettera inviata dalla città di Strasburgo, indirizzata a Gian Pietro Carafa in Roma, datata 15 novembre 1533. All'onorandissimo signore mio, Giovanni Pietro Carafa. Signore mio illustrissimo, scrivo alla signoria vostra, dopo un lungo silenzio, nella speranza che l'attenzione e la cura dimostrata nei confronti di questo fedele servitore trovino ancora ragion d'essere e conferma presso di voi. I fatti, di cui tengo a mettere al corrente la signoria vostra, sono appunto a mio giudizio utili, e forse anche necessari, a leggere nelle pieghe delle vicende delle terre settentrionali, che, come non ho mancato di riferire, vanno complicandosi ogni giorno di più. Il teatro dei fatti, di cui con tanta premura mi accingo a dar notizia, è il principato vescovile che fa capo alla città di Münster, al confine tra il territorio dell'impero e quello olandese, oggi affidato alla guida sapiente di sua eminenza il vescovo Franz von Waldeck. Costui sembra essere un uomo risoluto e devotissimo alla Santa Sede, ma anche prudente e attento a non perdere il potere che tanto il Papa quanto l'imperatore hanno rimesso nelle sue mani. La sua ascesa a principe vescovo è maturata in un clima acceso di diatribe e conflitti con quella parte della popolazione che professa fede luterana, per lo più mercanti, esponenti delle gilde che controllano il consiglio cittadino e che egli ha saputo affrontare con determinazione. Tutto questo non meriterebbe un solo istante dell'attenzione di vostra signoria, se non fosse che recenti avvenimenti in quella città sono oggi argomento di discussione per tutti, al punto che perfino il Langravio d'Assia, Filippo, si è visto costretto a inviare dei paceri per arginare il subbuglio che regna colà. Devo confessare che già da qualche tempo un nome che non mi era del tutto estraneo era giunto a queste orecchie, risalendo a ritroso il corso del Reno, portando fin qua l'eco di prediche ardite. Fin quando, proprio ieri, ho raccolto la testimonianza di un commerciante di pellami giunto da Münster e residente lassù. Quest'uomo di mercato mi ha parlato di un novello Isaia, osannato dal popolino, con molti seguaci nei vicoli e nelle osterie, consapevole dell'ascendente che esercita sui suoi concittadini e in grado di aizzarli contro il vescovo von Waldeck. Solo allora, quando ne ho avuto una descrizione fisica da un testimone diretto, ho associato il nome al volto dell'uomo della cui fama ero stato raggiunto. Bernard Rothman si chiama, e mi sono ricordato di averlo adocchiato proprio qui, a Strasburgo, circa 2 anni fa, quando le sue simpatie luterane lo avevano spinto a visitare i più importanti teologi protestanti. A quel tempo non lo avevo ritenuto persona pericolosa, almeno non più degli altri suoi compari fuoriusciti dalla Santa Chiesa Romana, ma oggi sento nuovamente parlare di lui e a gran voce. Si tratta di un predicatore münsterita di circa 40 anni, figlio di un artigiano, ma che, dicono, fin dall'infanzia ha dato segni di grande intelligenza e capacità e per questo è stato avviato alla vita ecclesiastica e successivamente mandato a studiare a Colonia dai canonici che lo avevano in cura. Durante quel viaggio passò da lui, ma anche da Wittenberg, dove incontrò Martin Lutero e Filippo Melantone. A quanto pare, al suo ritorno nella città natale, è diventato predicatore ufficiale, dando inizio a un durissimo attacco contro la Chiesa. Le gilde dei mercanti lo hanno subito appoggiato, vedendo in lui un ottimo ariete da scagliare contro i portali del vescovado. Costui, in poco tempo, ha conquistato il favore del popolino e si è acceso di ambizione. All'arroganza sembra unire anche l'eccentricità blasfema di chi pretende di amministrare il culto come meglio crede. Il mio mercante mi ha descritto il modo bizzarro in cui costui somministra la Santa Comunione, intingendo piccoli pani nel vino e servendoli ai fedeli. Inoltre, da un po' di tempo ha preso a negare il battesimo agli infanti. Questo particolare ha destato in me un vivo sospetto e mi ha spinto a chiedere di più. E infatti, interrogando il mercante, convincendolo a darmi ogni informazione utile, sono venuto a sapere di come questo falso Isaia abbia simpatie anabattiste. Ho scoperto che all'inizio dell'anno sono giunti a Münster alcuni predicatori anabattisti provenienti dall'Olanda, di cui ho minuziosamente annotato i nomi, almeno quelli che la buona memoria del mercante ha trattenuto. Costoro hanno eccitato il predicatore al punto di convertirlo alla loro falsa dottrina e di rinvigorirne l'acrimonia nei confronti del vescovo. Sembra anche che Lutero, già da alcuni mesi, tenga d'occhio questo personaggio, evidentemente impressionato dal rumore che che riesce a suscitare, e si dice che in diverse lettere spedite al Consiglio cittadino di Münster abbia tentato di mettere in guardia i protestanti da un uomo di tal fatta. Ma ben si sa che il monaco Martino ha una paura maledetta di chiunque possa competere con lui in popolarità e oratoria, minacciando il suo primato. Ciò che però ha ravvivato ulteriormente la mia attenzione riguardo a quella città è stato avere notizia del fatto che il Langravio Filippo si è sentito in dovere di inviare a Münster due predicatori che riconducessero questo Rothmann entro gli argini della dottrina luterana. Quando ho chiesto al mio provvidenziale mercante perché il Langravio Filippo si fosse scomodato tanto per un piccolo predicatore che per giunta non risiede nemmeno entro i confini del suo principato, egli ha risposto fornendomi un resoconto quanto mai dettagliato degli ultimi eventi verificatisi in Münster. Ebbene, come la signoria vostra avrà modo di leggere, tali avvenimenti confermano i peggiori sospetti che quest'umile osservatore ha espresso nelle missive precedenti, ben magra consolazione nella sventura. Nel momento in cui questo Rothmann ha abbracciato la dottrina che nega il battesimo agli infanti, molti del partito degli amici di Lutero lo hanno abbandonato, scendendo in campo contro colui che prima osannavano. Ma per quanti lo hanno abbandonato, altrettanti devono aver preso a seguirlo, se quello che mi è stato detto, come credo, corrisponde a verità. La città si è trovata dunque divisa in tre fedi, tre partiti ugualmente distanti tra loro: i cattolici romani fedeli al vescovo, i luterani, per lo più mercanti, che controllano il consiglio cittadino, e gli anabattisti, artigiani e lavoratori meccanici, seguaci di Rothmann e dei suoi predicatori venuti dall'Olanda. Nemmeno il fatto che questi ultimi fossero degli stranieri ha potuto separare il volgo dal suo predicatore, anzi, quando il consiglio ha cercato di espellerli dalla città, essi sono stati fatti rientrare nottetempo e al loro posto il popolo ha scacciato i predicatori locali. Chi è quest'uomo, mio signore? Quale incredibile potere esercita sulla plebe? Il ricordo corre da solo a quel Thomas Münzer che anni or sono la signoria vostra ha avuto modo di conoscere attraverso questi umili occhi. Ma è meglio terminare la cronaca, che sembrerebbe frutto di fantasia, se non fossi ben certo della saviezza di chi me l'ha fornita. Or dunque, davanti a una tale situazione, si è pensato bene di tenere una pubblica disputa tra le tre confessioni sulla questione del battesimo, in modo che le cose non degenerassero in guerra aperta. Si era nell'agosto di quest'anno, quando le migliori menti si sono date battaglia nell'area dottrinale. Ebbene, mio signore, Bernard Rothmann e i suoi olandesi hanno riportato una vittoria schiacciante, trascinando la cittadinanza dalla loro parte. Più volte la signoria vostra ha ricordato a questo suo servo come i luterani, eretici e strani e la grazia di Dio, si siano rivelati utili alleati, per quanto indesiderabili, contro minacce peggiori per la Santa Sede. Münster ha dato ancora prova di questo, producendo un'alleanza tra luterani e cattolici contro il seduttore Rothmann. I borgomastri della città gli hanno ordinato il silenzio e in breve tempo anche l'esilio. Ma questi, forte dell'appoggio del popolino, ha spregiato le ordinanze, continuando a sobillare e diffondere le sue pericolose dottrine. La città è parsa sul punto di scoppiare, tanto il sangue ribolliva nelle vene degli uni e degli altri. Ed ecco spiegato perché il Langravio Filippo si è precipitato a inviare i suoi paceri. Uomini dotti e diplomatici, i due luterani, tali Theodor Fabricius e Johannes Lening, che hanno cercato di distogliere l'attenzione di tutti dalla questione del battesimo. Ma, a detta di chi mi ha riferito i fatti, essi hanno ottenuto soltanto una tregua armata, in cui una sola scintilla basterebbe a incendiare tutta la città. Il mio mercante non ha avuto dubbi. Nel caso si arrivasse a una prova di forza, Rothmann e gli anabattisti avrebbero la meglio in un baleno. A ciò si aggiungono due eventi di non secondaria importanza. Il capo delle gilde, tale Knipper Dolling, spalleggia fronte alta il predicatore, portando con sé gli artigiani cittadini. Non da ultimo, sembra che il diffondersi della fama di Rothmann stia facendo affluire in Münster molti esuli olandesi, sacramentisti e anabattisti, accorciando ogni ora che passa la miccia della polveriera. Ed ecco che vengo a esporre alla signoria vostra i miei timori riguardo alla gravità della situazione. In ogni luogo, gli anabattisti hanno dato prova di tenacia e perfido potere seduttivo. Tanto Satana può sui mortali, e si diffondono la loro peste in lungo e in largo nei Paesi Bassi e dentro i confini dell'impero. Se adesso sono pochi e assai dispersi tra le regioni del nord, essi hanno tuttavia mostrato quale fascinazione le loro dottrine esercitano, specialmente presso il volgo ignorante e già per sua natura sedizioso. Ebbene, cosa succederebbe se si unissero? Cosa accadrebbe se cominciassero a riscuotere un sempre più largo successo con questo loro strisciare nei vicoli, nelle botteghe, lontani dal vaglio delle autorità dottrinali? Cosa se nessuno, né un vescovo, né un principe a quale Filippo, né Lutero, sembrano in grado di arrestarli in questo loro avanzare sotterraneo, ma anzi, li temono come la peste che si cerca di tenere lontana dai propri confini, ignari che essa avanza invisibile e può facilmente valicarli? Ogni risposta l'abbiamo davanti agli occhi. Il primo esiziale caso si sta già verificando ed è quello di Münster, dove un solo uomo tiene in scacco un'intera città. Il Langravio Filippo e Martin Lutero, pur fiutando il pericolo grave che questi anabattisti rappresentano, non sanno affatto come fermarli. Pensano davvero di poter riuscire a contenerle l'impeto perverso e a mantenerli nell'isolamento. Temo, mio signore, che sia un'illusione e che si accorgeranno dell'errore soltanto quando se li ritroveranno davanti alla porta di casa. Orbene, quel che io penso è che, come la signoria vostra ha avuto così magnanimamente insegnarmi, le minacce vadano sventate in tempo e annientate, prima che possano realizzarsi. Per questo, non ho mai trascurato di riferire alla signoria vostra ogni cosa che potesse essere anche minimamente utile a valutare i rischi che nascono in questa parte del mondo. Nel caso in questione, i fatti stanno già verificandosi, ma forse non è troppo tardi. Occorre fermare questo morbo e fermarlo sul nascere, prima che possa trovare diffusione in tutta l'Europa e contaminare l'impero, come già sta accadendo, magari senza fermarsi nemmeno davanti alle Alpi, scendendo in Italia e chissà fino a dove. Prima che ciò accada, occorre agire. Attendo dunque con impazienza la vostra direttiva, se ancora vorrete gratificare un servo di Dio concedendogli di servire la sua causa in quest'ora difficile. Bacio le mani della signoria vostra in attesa di una parola. Di Strasburgo, il giorno 15 novembre dell'anno 1533. Il fedele osservatore di vostra signoria. Q.